Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Una buona notizia per chi quest'estate volerà lontano. In alto i cuori, anzi le gambe, la sindrome da classe economica non esiste in tempi di crisi. Sapere che viaggiare in economy non comporta rischi fa due volte piacere. In ogni caso, se avete in programma un viaggio che supera le 6-8 ore di volo, chiamatemi. Ma invito anche a chiamarmi anche chi starà coi piedi ben appoggiati a terra. 800 24 0024. E qui in studio con me la dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALT, l'associazione lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari e responsabile del centro trombosi dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Buongiorno, bentornata. Buongiorno a voi, un piacere. Dottoressa, volate tranquilli ma attenti, e inizierei a stare attenta al significato delle parole. Partiamo dalla sindrome della classe economica. Cominciamo da sindrome. Quando diciamo sindrome non diciamo malattia. Diciamo manifestazione di qualcosa che accade legato a cause diverse, ragioni diverse, ma che insieme provocano lo stesso fenomeno. La sindrome da classe economica è stata classificata in questo modo ed è una trombosi delle vene delle gambe che si verifica dopo un lungo volo, più o meno statisticamente dalle 6 alle 8 ore può diventare impegnativo, ed è successo questo perché una giovane donna che aveva fatto un volo transatlantico arrivando, se non ricordo male, dall'Australia all'Europa, quando è atterrata ha avuto questa manifestazione grave di trombosi agli arti inferiori nelle vene delle gambe e poi un'embolia polmonare, perché un frammento di questo coagulo di sangue che si era formato nelle vene si era staccato e era andato al cuore. Il cuore l'aveva mandato nel polmone, e l'embolia polmonare è un evento molto grave, può essere anche un evento fatale. Da questo momento si è cominciato a studiare per cercare di capire quali erano le ragioni, e di fatto si sta ancora discutendo su di che cosa sia la colpa. Quello che si sa per certo è che in aereo c'è una pressurizzazione che corrisponde più o meno a quella che abbiamo in alta montagna quando andiamo a 2000 metri, quindi c'è una carenza, fra virgolette, di ossigeno, che c'è una posizione molto scomoda, per questo si parla della sindrome da classe economica, che si suppone non possa avvenire, ma non è vero nelle classi più comode, ed è legata soprattutto alla posizione molto costretta nella quale ci addormentiamo accartocciati, non muoviamo le gambe, non muoviamo i muscoli delle gambe, ci disidratiamo, e quindi questo può portare a un addensamento del sangue che può causare una trombosi. Non è detto che debba sempre essere così, ci sono alcune persone che rischiano più di altre, alcune persone che hanno fattori di rischio legati a come sono, per esempio le persone più grosse, più importanti come peso, hanno un rischio più alto, le persone che volano con un abbigliamento totalmente inadeguato, troppo stretto, che stringe all'inguine, che fa un effetto elastico sul polpaccio, dietro al ginocchio, alla caviglia, le persone che fumano e che prendono contraccettivi orali, la pillola contraccettiva, le persone che sono in gravidanza, le donne in gravidanza, e le persone che hanno già avuto una trombosi in passato. Questo non vuol dire che tutte queste persone debbano prendersi dei farmaci prima di partire, lo dico molto chiaramente perché questa non è l'indicazione, vuol dire che queste persone devono soltanto, magari oggi anche grazie a noi, avere qualche informazione in più per poter essere preparate a non sottovalutare una gamba che si gonfia, un cordone rosso dolente che compare lungo la gamba dopo un lungo viaggio, che può essere anche un viaggio in macchina, perché è stato dimostrato che anche viaggiare in macchina, come può succedere adesso, 8 ore, 10 ore di viaggio, scomodi, magari tutta la famiglia, senza fermarsi mai, senza sgranchirsi mai le gambe. E quindi ritorniamo sull'immobilità. Esatto. Anche nelle persone che stanno a lungo sedute al lavoro. Ecco, questo è l'altro aspetto, per quello si parla di sindrome da classe economica, ma si parla anche di e-trombosi, che sarebbe la trombosi, farebbe pensare alla trombosi elettronica, la E davanti. Di fatto è una maggiore facilità a sviluppare rallentamento di circolo nelle vene delle gambe, e quindi addensamento del sangue, e quindi trombosi, nelle persone che stanno molto a lungo sedute, che si dimenticano di avere le gambe, che quindi stanno penzoloni, spesso immobili, che non fanno quello che si potrebbe fare, dei piccoli esercizi di contrazione del polpaccio, di roteazione parziale della caviglia, del piede sulla caviglia, cosa che riattiva la pompa muscolare e che può aiutare il ritorno del sangue al cuore. 800 24 0024, quindi dottoressa Rotavender, se rimanete o rimarrete molte ore immobili, seduti, o per un lungo viaggio in aereo e in macchina, se lo fate abitualmente quando siete alla scrivania, se siete un po' sovrappeso, se fumate, se prendete la pillola anticoncezionale, se siete in gravidanza, ricordatevi delle vostre gambe. E chiamateci 800 24 0024. Circolate, non mi create l'ingorgo. Via, circolare. Avanti, circolare. Venite avanti. Avanti. E a proposito di circolazione, tendiamo a pensare che sia proprio colpa della nostra circolazione se ci sentiamo le gambe pesanti, i piedi gonfi o le mani formicolanti. Questi sintomi non sono sempre necessariamente legati ovviamente a una trombosi, molto spesso sono proprio legati anche alle terminazioni nervose. Noi quando stiamo seduti, soprattutto in una posizione scomoda, la nostra schiena molto spesso ce la dimentichiamo, perché ci dimentichiamo delle gambe, ci dimentichiamo della schiena, ci dimentichiamo di un sacco di cose. La schiena si mette in una posizione un pochino scomoda e arrotolata, non ben distesa, quindi la colonna vertebrale, che è fatta di tanti dischi che sono le vertebre, sovrapposti uno all'altro come se fossero tanti anelli, tanti portatovaglioli, ecco, mettiamola così, fra un portatovagliolo e l'altro, quindi fra una vertebra e l'altra, escono le terminazioni nervose che dal cervello direttamente vanno a innervare tutte le parti del nostro corpo. Quando abbiamo dei sintomi che compaiono contemporaneamente in tutte e due le mani, in tutte e due le gambe, possiamo pensare che questo sia legato anche a una compressione, se ci troviamo in quella situazione che abbiamo detto. E quindi non è sempre colpa necessariamente del sangue che si addensa, ma diciamo che la diversità sta in questo: se mi formicolano tutte e due le mani, io le muovo, le scuoto, le contraggo e questo deve andare via, questo sintomo deve sparire. La stessa cosa che succede la mattina quando si svegliano le persone che hanno, diciamo, sopra i 50, che soffrono di artrosi cervicale e che molto spesso riferiscono questo sintomo. Lì bisogna fare la differenza. Quello che deve allertare è quando il sintomo compare da una sola parte e non da tutte e due. Antonio ci chiama da Caserta, il nostro numero verde 800 24 0024. Benvenuto e buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, che è utilissima anche per me che sono giovane e quindi comunque ho pochi problemi di salute, però mi aiuta molto, mi diverte molto ascoltarvi durante la giornata. Volevo fare una domanda alla dottoressa, volevo chiedere, visto che sono in procinto di fare un viaggio che durerà, diciamo, all'incirca 13 ore, e visto che mia moglie tende sempre si addormentano spesso le gambe quando si trova in una posizione, diciamo, ferma per più, anche per poco tempo, per un paio d'ore, deve fare qualcosa, deve prendere qualche precauzione per noi che intraprendiamo questo viaggio lungo. Grazie Antonio. Antonio non ci ha detto se viaggerà in macchina, in treno, in aereo, però vale per tutti quello che le sto per dire. Vale quello che abbiamo detto prima, quindi ricordarsi che ogni tanto bisogna contrarre i polpacci come se si volessero strizzare le gambe, muovere un pochino le caviglie, scendere se andate in macchina a fare quattro passi, oppure se la hostess lo consente in volo, andare a fare un piccolo giro. Evitare ogni tanto magari il posto non vicino al finestrino, perché poi siamo più costretti. Soprattutto per le persone che sono più pesanti oppure che sono più lunghe, perché anche le persone molto lunghe possono avere questo problema. Ricordarsi di bere moltissima acqua. C'è una grande discussione sul fatto che sia più o meno controindicato prendere alcolici durante il volo, ma direi che questo ha un impatto abbastanza trascurabile. Ma soprattutto mettersi molto comodi e viaggiare vestiti comodi, non mettersi elastici addosso. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Oh yeah. Siamo fatti per muoverci, non a caso vengono consigliati i famosi 10.000 passi al giorno, passo dopo passo la salute ci guadagna. Gran parte del lavoro però lo svolge il piede, che è una vera e propria pompa. In linea con noi abbiamo il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori e agli ospiti. Allora, dobbiamo muoverci. E la salute della, la salute direi generale e soprattutto la nostra circolazione ci guadagnano. La dottoressa Lidia Rotavender ci ha già suggerito dei piccoli movimenti, il semplice sgranchirci le gambe oppure far appoggiare bene i piedi per terra, cosa che spesso tendiamo a dimenticare quando siamo seduti alla scrivania. Ma professor Tirelli, aspettiamo da lei altri esercizi, suggerimenti pratici. Sì, al di là del fatto che ovviamente il camminare piuttosto che il nuotare, adesso che siamo nella stagione anche più idonea, andare anche in bici relativamente parlando possono essere situazioni, attività ottimali, io credo che ci possono essere anche dei piccoli esercizi da farsi sia in ufficio sia in aereo o laddove abbiamo la possibilità comunque di compiere dei piccoli gesti che aumentano proprio questa capacità della pompa venosa del piede in particolare di reagire a questi stimoli. Un esercizio carino che mi viene in mente, mi ricorda un po' quel film di Celentano, Il bisbetico domato, non so se vi ricordate quando a un certo punto lui pigiava l'uva. Sì. A ritmo di musica. Allora, questo movimento di flesso estensione, quindi alzare in modo ritmico e abbassare il tallone, sì, chiaramente va a contrarre in modo dinamico il gastrocnemio, così il polpaccio, diciamo. Sì. Che compie appunto questa capacità di attivare questa pompa venosa. E l'importante in tutti questi esercizi è che siano dinamici, mai, come si suol dire, isometrici, cioè la contrazione non deve essere mai diciamo di 6 secondi, 5-6 secondi costante, perché allora avremo degli effetti un pochino più deleteri, quasi contrari. È un altro esercizio che si può fare, per esempio, che vedevo spesso in Vietnam quando andavo a fare dei corsi di aggiornamento, li vedevo sia per quanto riguardava i pazienti negli ospedali, ma anche le persone in fila alla posta o in fila di fronte al check-in. Appoggiare i palmi delle mani sulle ginocchia. Sì. E in modo ritmico disegnare dei cerchi orario e antiorario, muovendo simultaneamente sia le caviglie, sia le ginocchia e possibilmente anche il bacino. Questa cosa per noi appare un po' strana, ma sì, andare in Oriente e vedere queste persone che fanno questo gesto è proprio normale, anche di fronte veramente ad una fila della banca o della posta. E un altro esercizio carino, molto simpatico, è quello proprio di alzarsi, appoggiare magari la mano per mantenere l'equilibrio e con i piedi disegnare, anzi scrivere proprio dei nomi. Io posso scrivere anche ciao con un, sì, piede. In questo modo vado ad attivare sia l'articolazione tibiotarsica, quindi la caviglia, attivo l'articolazione del ginocchio, femoro-rotulea in particolare, e posso attivare anche quella dell'anca. Quindi scrivete con i piedi, potete anche scrivere il nostro numero verde 800 24 00 24, così ve lo ricordate, un numero da tenere sempre pronto. Professor Tirelli, grazie. Grazie a voi, è sempre un piacere sentirvi. Grazie. Alla mille. Prossima. Buongiorno. Camminate e intanto che circolate. Dottoressa Rotavender, possiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori? La vuole formulare lei? Perché io alla prima risposta esatta avrei la possibilità di far ricevere a casa il nostro Sugar Box. Però deve essere una domanda semplice, ma un pochino intrigante. Una domanda intrigante, che però interessa tutti. Certo. Quanto sangue abbiamo che circola nel nostro corpo e quanto ci mette il sangue quando parte dal cuore a ritornare al punto di partenza? Complicata? Vedremo che cosa risponderanno i nostri ascoltatori, che possono naturalmente chiamarci all'800 24 0024. Già il suono dell'acqua ci fa stare bene, muove emozioni positive, ma l'acqua, lo sappiamo, svolge anche un benefico massaggio che va a riattivare proprio la nostra circolazione. Chi di noi non ha provato quella piacevole sensazione di leggerezza camminando sulla battigia? In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Fausto Bonsignori, specialista di idrologia medica e clinica termale, docente all'Università di Pisa e Milano. Buongiorno, professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Ci aiuta a sfruttare l'azione dell'acqua per la nostra circolazione? Beh, sappiamo benissimo che l'azione dell'acqua è veramente straordinaria, a parte per la circolazione ma anche per tanti altri problemi. Noi possiamo fare per la circolazione dei percorsi acquatici, che sono quelli che sono proposti anche nei centri talassoterapici e nei centri termali. Sì. Un'acqua, un percorso di qualche metro, 6-8 metri, in vasche lunghe con una profondità di circa 50-60 centimetri, e si cammina in queste vasche, meglio se queste vasche sono contigue e hanno temperature diverse, ed un pavimento ciottolato che favorisce appunto la funzione della pompa venosa. Quindi si cammina in questi percorsi acquatici, meglio anche se c'è una corrente da vincere, quindi si cammina controcorrente. Si fa un pochino più fatica, ma il massaggio è più efficace. Con i vantaggi nettamente migliori, anche se troviamo per esempio in questo percorso degli idrogetti, degli idromassaggi. Due vasche con diversa temperatura che qualcuno conosce anche con il nome del metodo Knipe. Quindi si favorisce proprio una vera e propria ginnastica del microcircolo e anche del circolo venoso profondo, quindi si passa dal caldo al freddo, 10 gradi di differenza, quindi una temperatura di circa, sui 28-30 gradi la temperatura più calda, 10 gradi meno quella più fredda, e si favorisce una bellissima ginnastica vascolare insieme alla spremitura della pompa venosa, che poi determina un miglioramento notevole della nostra capacità circolatoria, linfatica e venosa delle nostre gambe. Quindi è un trattamento non solo da utilizzare in patologie importanti, penso alla sindrome post-flebitica, penso alle forme più importanti della circolazione venosa, anche nelle insufficienze importanti, ma anche e soprattutto come prevenzione. Camminare in acqua, camminare in queste strutture termali o talassoterapiche con questi percorsi acquatici dà veramente una importante funzione preventiva. Dottoressa, mi è venuto in mente, visto la stagione in cui siamo, immagino che l'acqua salata, credo che il professore lo confermi, l'acqua salata aggiunga un qualche cosa di più in quanto... Certamente, ha un valore aggiunto importante, esatto. Perché l'acqua salata, che poi l'acqua marina in realtà si è utilizzata come la stiamo utilizzando noi in talassoterapia, è un'acqua termale a tutti gli effetti, ha un'azione soprattutto antinfiammatoria, disinfettante e antiedema, proprio per le caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua stessa. E poi quindi ha un valore aggiunto rispetto all'acqua non marina o non termale. E poi per chi va al mare, che ha il privilegio in questa stagione di poter andare al mare, gratis, nel senso che comunque ha già speso per andare al mare e approfittando di questo, esatto, della possibilità. Tra l'altro, professor Bonsignori, lei ha detto immersi 50-60 centimetri, il che significa che le persone che vogliono approfittare della vacanza al mare per fare questo massaggio circolatorio dovrebbero spingersi un pochino oltre la battigia, quindi immergersi con l'acqua almeno fino alla vita? Quasi al bacino, quasi se al bacino. Un beneficio importante. Certo, può andare bene anche sopra il ginocchio, niente lo esclude, però se riusciamo a camminare quasi al bacino ci sono anche dei vantaggi ulteriori, per esempio c'è un allenamento, una corretta postura e un corretto equilibrio nella deambulazione. Spesso abbiamo dei difetti di postura che sono dovuti a mille problemi. Camminando in acqua, per tutta una serie di situazioni fisiche che l'acqua ci offre, possiamo anche migliorare meglio la nostra capacità di camminare e la nostra postura durante il giorno anche fuori dall'acqua. Allora, quindi, tu sei al mare. Mare, grazie. Grazie professor Bonsignori per essere stato con noi. Buona giornata. A voi. E siamo tornati con la gelida manina, dottoressa Rottavender. Perché? Perché è un altro segnale che leghiamo a un problema circolatorio, sono proprio le dita, le mani fredde. Mani fredde, cuore caldo, dicevano le nostre nonne, che avevano un po' una spiegazione per tutto. In questo caso ci dicevano che era il sangue, era tutto concentrato nel cuore e non arrivava alle mani. Non so se sbagliassero. Assolutamente, no? vero, come spesso succede per la saggezza antica. È vero, no, sorridevo prima perché in effetti lui la melodia dice gelida manina, non dice gelide manine. E gelida manina, se vogliamo cercare di ricordarcelo, può essere un segnale non buono, perché tutte e due le mani fredde possono voler dire che la quantità di sangue che sta arrivando nella parte di periferia meno nobile del nostro corpo è diminuita, perché c'è qualche organo privilegiato che la sta sfruttando. Il cuore, per esempio, il cervello, lo stomaco, il caso più frequente è lo stomaco. Quando invece questa cosa, quindi quando accade in tutte e due le mani, in tutti e due i piedi, senza un cambio netto di colore, soprattutto sì. Non devono diventare né piedi né mani estremamente pallidi o bluastri o peggio rossastri. In quel caso ci possono essere tanti fattori che concomitano e ci può essere anche una malattia di base, la conosciamo come fenomeno di Raynaud, anche questa sì. Non è una malattia, è un fenomeno, vuol dire una manifestazione di qualcosa che non va. Molto più frequente nelle persone che fumano, nelle persone che per esempio soffrono di geloni. L'origine del gelone è proprio questa, adesso non è più la stagione, ma insomma ci sarà qualcuno che se lo ricorda e ha visto qualcun altro, e questo può accadere proprio per una incapacità del circolo di adeguarsi alle fredde temperature esterne e di portare sangue in sufficienza per poter continuare a rilasciare ossigeno agli organi. Quello che invece non va bene è quando è una sola la manina o il piedino o il piedone freddo, non buono, raffredda e che cambia colore. Ecco, in quel caso ci può essere un fenomeno di tipo neurologico compressivo da schiena, oppure ci può essere veramente un disturbo di circolo molto importante nelle persone che soffrono di diabete, nelle persone che sono obese, nelle persone ipertese che hanno la pressione alta. Molto importante, sintomo da non sottovalutiamo mai. Matteo da Venezia, Antonietta da Milano. Matteo, buongiorno. Matteo, buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Sì, mi sente? Sì, io la buongiorno. Sento. Buongiorno. Senta, io volevo un consiglio. Da un paio d'anni circa soffro di dolori alle gambe e ai glutei, quindi posso rimanere poco seduto. E volevo capire se possa essere un problema di circolazione. Dopo aver fatto varie indagini mi è stato diagnosticato probabilmente una sindrome del piriforme. Però nonostante infiltrazioni, pomate, i vari tipi di trattamenti, non ha trovato giovamento, quindi sta poco seduto Matteo per questo problema. Restiamo a Milano con Antonietta, poi diamo qualche indicazione. Antonietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io avrei una domanda da fare. Sì. Devo affrontare un lungo viaggio aereo. Sì. E volevo sapere se sono consigliabili le calze elastiche. Grazie Antonietta. Allora, rispondiamo prima a Matteo. Matteo. Per quello che Matteo riferisce, non sapendo quanti anni abbia, quali siano le sue abitudini di vita, qual è il suo peso, quali sono gli esami che ha fatto, io direi che ritorniamo a quello che abbiamo detto in precedenza. Si tratta di un sintomo che si verifica a livello di tutte e due gli arti inferiori e quindi molto verosimilmente c'è una componente proprio del sistema nervoso che poi sia da compressione, da infiammazione oppure da articolazioni che stanno soffrendo e credo che sia più un problema di quel genere. Per quanto riguarda invece Antonietta, mi sembra che si chiami. Perfetto. Antonietta chiede se in procinto di fare un viaggio lungo in aereo ha bisogno per forza di portare le calze elastiche. Le calze elastiche sono un presidio straordinario per comprimere il circolo venoso superficiale delle gambe e costringere il sangue a passare in profondità dentro ai muscoli delle gambe, dove le vene sono più grandi e soprattutto vengono aiutate nello spingere il sangue al cuore dalla contrazione dei muscoli. Quindi le calze vanno benissimo, ma devono essere prima di tutto appropriate, quindi devono essere di un materiale appropriato, possibilmente di cotone o di microfibra, ma sono più igieniche. Debbono essere giuste per la misura della gamba della persona, perché molto spesso ci ritroviamo con persone che prendono calze troppo lunghe, troppo corte, troppo larghe, troppo strette. Quando per esempio una persona dice metto le calze elastiche ma sono un tormento, vuol dire che ha sbagliato la misura. Oppure che non le calza in modo adeguato. Le calze vanno messe con la gamba vuota, quindi la mattina ci si alza, si va in bagno, si fa la propria igiene, si ritorna a letto, ci si sdraia per 2 minuti, si alzano le gambe, i piedi appoggiati al muro sopra la testiera del letto in alto. Le gambe diventano molto pallide perché il sangue torna al cuore con più facilità, si poggiano le gambe sul letto, si fa un massaggio con un po' di borotalco, non usare creme e togliere l'umidità dalle gambe altrimenti le calze non entreranno mai, quindi un massaggio con borotalco da punta del piede fino all'inguine e poi si calzano le calze. Questo che sembra occupare chissà quanto tempo, credo che occupi poco più di quello del tempo che ci ho messo a raccontarlo. Ecco. Allora via con le calze. Lei ha già capito, è inutile che io la dica, mi vergogno a dirlo, è traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere, e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia, troppe macchine. Scusi se l'ho messa in mezzo a questo traffico. E a proposito di traffico, di circolazione e di sangue, il sangue a volte va alla testa, succede quando ci arrabbiamo. Sino ad oggi abbiamo pensato fosse un modo di dire, invece sorpresa, anche in questo caso ci avevamo visto lungo. Un attacco d'ira e il sangue va alla testa. Una ricerca condotta dagli esperti della University of California e dal Cedars Sinai Medical Center e pubblicata sul Cardiovascular Ultrasound svela che non si tratta soltanto di un modo di dire, ma di una reazione fisiologica alla rabbia. I test, condotti su un gruppo di volontari tra i 19 e i 60 anni, hanno dimostrato che lo stress mentale, infatti, innesca un processo di vasodilatazione nei soggetti che non soffrono di pressione alta. Le immagini ad ultrasuoni hanno permesso di fotografare le carotidi, le arterie che trasportano il flusso sanguigno dal cuore al cervello, che si dilatano e pompano più sangue al cervello. Tratto da Salute 24. Un'ulteriore conferma del rapporto molto stretto che esiste tra psica e soma. Siamo anche il prodotto delle nostre emozioni. In linea con noi abbiamo il dottor Francesco Aquilar. Buongiorno, dottore. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Psicologo, psicoterapeuta cognitivo, uno degli esperti del nostro Daily Lab. La rabbia, dottor Aquilar, fa salire il sangue alla testa, ma rischia sempre la rabbia anche di avvelenarci la vita. Quindi io direi arrabbiamoci, ma senza esagerare, o prendiamo, come insegna lei, dalla rabbia il buono. Esattamente, infatti la rabbia è un'emozione importantissima, ma dobbiamo stare attenti, come si diceva, ad utilizzarla senza farcene travolgere, altrimenti può diventare molto pericolosa non solo per la nostra salute fisica, come testimoniava la ricerca che è stata letta, ma anche per la nostra salute mentale. Basti pensare al fatto che almeno due disturbi psicopatologici gravi sono caratterizzati proprio da un eccesso di rabbia disregolata, e essi sono il disturbo borderline di personalità e il disturbo esplosivo intermittente. Ma in generale a che serve la rabbia? Innanzitutto serve a segnalarci la presenza di un competitore, a volte anche prima che noi ce ne accorgiamo consapevolmente, e poi a seconda del sistema motivazionale interpersonale in cui la rabbia è attivata, ci può segnalare anche tra l'altro una serie di cose, tra le quali queste. La prima segnala che non riusciamo ad ottenere la vicinanza desiderata alle persone oggetto del nostro attaccamento e quindi ci arrabbiamo, oppure che non riusciamo ad accudire in maniera efficace le persone care che ci appaiono più piccole, deboli o bisognose, oppure ancora quando non riusciamo a vincere in una competizione che ci interessa, o anche quando non riusciamo ad ottenere la modalità sessuale che desideriamo, o quando non riusciamo a collaborare adeguatamente con i nostri pari per ottenere un obiettivo comune che da soli non saremmo in grado di conseguire. Quindi, come si vede, le funzioni della rabbia sono numerose. Se riusciamo a modularla e a governarla, essa ci darà informazioni preziose sia sulla situazione che sul da farsi. Se la rabbia invece sfugge alla nostra supervisione razionale, tenderà a prendere tirannicamente il controllo di noi e difficilmente ci farà ottenere i risultati desiderati. Quindi impariamo anche dalla nostra rabbia, perché ci suggerisce qualche cosa in più di noi. Tra l'altro i processi della rabbia sono ben descritti nel libro del dottor Aquilar, Riconoscere le emozioni, di cui è appena uscita la seconda edizione ampliata, dottor Aquilar. E poi, come sempre, io rimando i nostri ascoltatori a leggere i suoi post sul nostro Daily Lab. Perfetto, va bene, grazie. Così se ci arrabbiamo, cerchiamo di prendere, come dicevamo, il buono dalla rabbia. Chissà mai, anche la rabbia può diventare un propellente straordinario, la rabbia, se noi la moduliamo, mentre invece può diventare qualcosa che ci affossa se non siamo capaci di modularla. Dottor Aquilar, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci. Andrea ci chiama da Firenze. Buongiorno a lei. Sì, buongiorno. Senta, volevo fare una domanda. C'è mia moglie, la notte si sveglia perché le gambe non le stanno ferme. Pronto? Sì, la stiamo sentendo, Andrea. È un problema di gambe e si verifica di notte, queste gambe senza riposo. Le famose gambe senza riposo. Beh, le gambe senza riposo sono intanto hanno un nome molto accattivante e quindi si possono ottenere molte informazioni andando a cercare sul web. Le gambe senza riposo sono un grande impaccio perché in effetti impediscono di avere un riposo corretto durante la notte. Le gambe sono frenetiche. Vorrei fare una distinzione: non sono quelle gambe con le quali noi facciamo degli scatti, soprattutto nel momento dell'addormentamento. Questo è un altro discorso. Ma le gambe senza riposo sono proprio quelle gambe che non riescono proprio a star fermi, per cui durante la notte ci svegliano. E questo può dipendere da mille ragioni, però di nuovo torniamo sulla nostra schiena. Molto spesso è colpa di un assetto sbagliato della postura, cioè del modo in cui stiamo seduti, in piedi, del modo in cui camminiamo. E molto spesso accade nelle donne dopo che hanno avuto un figlio, perché durante la gravidanza, per riequilibrare i pesi, la donna col pancione tende ad avere questa andatura cosiddetta anserina, da papera, e quindi porta la pancia in avanti e si riequilibra portando la schiena all'indietro. Questo però a lungo andare ovviamente provoca un'usura. Penso che un'usura, intendo ovviamente le terminazioni nervose, penso che una valutazione di tipo ortopedico di un esperto o neurochirurgica di un esperto della colonna possa aiutare. Allora Alex da Reggio Emilia ci scrive: devo fare per la prima volta 9 ore di volo, ho tachicardie, sono sovrappeso, problemi circolatori alle gambe, resto a casa. No. Ma no, parta Alex! No, parta se vai in un posto gradevole ovviamente, dove puoi spostare. No, questo signore deve, secondo me, con questi sintomi che riferisce, se sono effettivamente comprovati, quindi sovrappeso, la tachicardia, se ha il suo piccolo bagaglio di medicine deve ricordarsi assolutamente di averla a disposizione, prendere bene i farmaci, farsi rivedere un attimo dal suo medico di fiducia per riequilibrare, per un piccolo tagliando, ma insomma, anche perché se vai in un posto molto caldo oppure se vai in montagna possono cambiare le condizioni, possono cambiare le dosi dei farmaci che gli servono abitualmente. Questo è molto importante. Dottoressa Rottavender, mi stanno scrivendo al 349 238 6666 di ripetere la domanda del nostro quizzettone a cui abbiniamo lo Sugar Box, che è una scatola per provare le novità della cosmesi. Allora, quanto sangue abbiamo, parliamo di un adulto, e quanto tempo ci mette il sangue una volta partito dal cuore a tornare al punto di partenza? 800 24 0024. Clifford Stennis, un messaggio, vuol vedere? Sì, il mio cuore dice una cosa, il mio cervello ne dice un'altra, sai. Non è facile, no, mettere d'accordo cuore e cervello. Per me, cuore e cervello, i miei non si danno neanche del tu. I miei non si danno neanche del tu. Invece, dottoressa Rottavender, a proposito di cuore e di cervello, abbiamo detto tante volte che sono una coppia unita nella buona e nella cattiva sorte, perché il cervello per funzionare bene ha bisogno di un cuore sano ed efficiente, che è garanzia di una corretta ossigenazione. Ritorniamo al discorso della circolazione. Penso che poi prima o poi tutti lo impareranno questo concetto, glielo stiamo raccontando molto, molto intensamente. No, è importante il cuore che manda al cervello il sangue del quale poi le cellule si nutrono, e è il cervello che recepisce sensazioni di paura come, o di rabbia come quelle che dicevamo prima, o di allerta, e poi manda degli impulsi al cuore che si traducono in un'accelerazione del battito cardiaco. Dobbiamo imparare a fare anche una distinzione fra la tachicardia e l'aritmia, perché tachicardia vuol dire il cuore batte più rapidamente, fa più battiti in un minuto, l'aritmia invece batte in un modo scomposto. Un cuore, per esempio, che viene colpito dall'infarto ha una cicatrice nella sua parte muscolare, che è quella di efficienza, quella con la quale si contrae, e quindi non si contrarrà più in un modo armonioso ed efficace, ma si contrarrà in un modo scomposto, e qualche volta può cambiare anche ritmo e fibrillare, perché anche il sistema elettrico che innerva il cuore può subire un insulto e quindi mandare delle scariche come quelle che accadono in un impianto elettrico di casa quando i fili sono invecchiati, c'è un filo scoperto e c'è la luce che balla. Altre volte invece sono proprio le valvole del cuore che si possono ammalare. Noi non ci ricordiamo mai, ma questo povero cuore sta battendo dal primo battito registrato oggi alla prima ecografia durante la gravidanza, e lavora indefessamente fino a quando non si ferma definitivamente. Quindi ha un grande lavoro da fare, e in fondo è un piccolo organo, sono 300 grammi di muscolo, quindi non è una cosa così enorme. E se il cuore si dilata perché è stanco, perché ha lavorato contro delle resistenze nelle persone, per esempio, che hanno la pressione alta, se non se ne accorgono per tempo, il cuore fa sforzo come esattamente il muscolo delle gambe quando noi lo esercitiamo andando in bicicletta, per esempio, cambia forma, però riduce la sua capacità di spingere il sangue. Insomma, fra cuore e cervello c'è una relazione strettissima, imprescindibile, e uno risponde all'altro, parlano fra di loro in termini emotivi, in termini fisici, e danno altro che del tu. E come no, si fanno proprio coppia. Sì. E noi possiamo aiutare questa coppia, perché c'è un ponte che li aiuta veramente a funzionare bene. È il nostro respiro. Ne parliamo con Susy Stefanini, insegnante di yoga. Buongiorno. Buongiorno. Noi possiamo usare proprio il respiro per far sì che il nostro cuore e il nostro cervello stiano bene. Assolutamente. assolutamente. Lavorino in modo efficace, sincrono. Certo, c'è una respirazione in particolare che è molto interessante, la base è sempre la respirazione diaframmatica, quindi per intenderci quel respiro che muove bene l'area dello stomaco e dell'ombelico, ed è una respirazione in cui il diaframma diviene in qualche modo un attivatore della circolazione sanguigna, possiamo dire che funziona come se fosse un cuore rispetto alla circolazione venosa. Allora, in questa respirazione cosa succede? Che noi espiriamo in modo attivo, breve, potente, mentre l'inspirazione è più lenta ed è passiva. Allora cosa succede? Questa forte attivazione, grazie alla muscolatura addominale del diaframma, permette al sangue venoso che ristagna negli arti inferiori, anche nell'addome, di tornare al cuore. E a sua volta il cuore lo rimanderà ai polmoni, che avranno a disposizione davvero una grandissima quantità di aria, che potrà essere ossigenata, potrà essere rivitalizzata. E con la pratica, naturalmente, parliamo di una persona in condizioni di salute normale, quindi che non abbia ovviamente né ipertensione, ovviamente non in gravidanza, ma con la pratica si arriva a fare una respirazione di questo tipo piuttosto dinamica, cioè fino a 2 respiri al secondo, quindi in un minuto abbiamo circa 120 respiri. Pensate che il sangue viene saturato di ossigeno e anche una notevole eliminazione di CO2 e di tossine dal sangue. Dunque, rivitalizzazione, purificazione. Interessante anche il fatto che lo stesso cervello viene massaggiato dal respiro, perché noi non lo sappiamo. Mi piace questa idea che il respiro viene massaggiato, che massaggia il cervello. Certo, perché il nostro cervello normalmente, quando noi respiriamo, cambia il suo volume, quindi diminuisce il volume quando inspiriamo e aumenta quando espiriamo. Quindi se noi portiamo un'attivazione alla circolazione, grazie proprio a questo respiro dinamico, lo stesso cervello come una spugna viene massaggiato, riceve più ossigeno a sua volta, e questo dà ragione un po' di questo nome particolare che ha questo tipo di respirazione, che ha il nome sanscrito di Kapalabhati, che vuol dire cranio, quindi cervello pulito, luminoso, brillante, no? Una vera purificazione anche a livello cerebrale. Vi voglio così, brillanti, ossigenati, brillanti, e quindi ricordatevi del vostro ombelico. Ogni tanto ci fermiamo e cerchiamo di respirare con la pancia e poi, come ci ha insegnato Susi Stefanini, proviamo a fare questa respirazione in cui buttiamo fuori l'aria solo delle narici, come se ci soffiassimo il naso, vero Susi? Esatto, possiamo incominciare lentamente, tipo in questo modo. E poi piano piano accelerare. Si sente, si sente che Susi Stefanini è allenata. Non c'è ovviamente nessuna tensione al torace, che rimane rilassato, ed è proprio una pompa a livello del diaframma. Grazie a Susi Stefanini, proveremo anche noi. Buona giornata. Grazie anche a voi. Abbiamo Barbara, ci chiama da Roma all'800240024. Benvenuta e buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno a lei. Mi sento? Sì, la sentiamo forte e chiara, ben ossigenata. Mi dica. Grazie. Io non mi sento molto bene, però mi farò direttamente la mia No, dobbiamo richiamarla perché ho parlato troppo presto, perché la sentiamo malissimo. Barbara, cercheremo di ripescarla. Andiamo a Giovanni, dalla provincia di Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, eccola qua. Buongiorno. A parte il cuore che va a 100 all'ora per la prima volta che chiamo, quindi sono anche in tema. Ma questa è una ginnastica. Abbiamo dato un'emozione. Magnifico, Giovanni. No, io avevo chiamato per il quiz. Poi ah, bene, bene. Non me l'hanno segnalato, ma chiedo dalla regia che cosa mi dicono. Ok, va bene. Giovanni, allora, risponda al quizettone. Ma io, secondo me, indicativamente abbiamo 5-6 litri di sangue, e un paio di minuti fa tutto il giro. Ah, bravissimo. Bravissimo. Vede che a essere emozionati ci si guadagna. Aiuta. Si è ossigenato il cervello, bene, ha risposto perfetto. Perfetto, Giovanni. E quindi grazie. Noi ci salutiamo e possiamo farle arrivare a casa la Sugar Box. Grazie Giovanni. Forse, grazie mille. Forse abbiamo ancora Barbara da Roma. Barbara, eccola. Sì, ci sono, mi sentite? Sì, vada. Buongiorno, volevo sapere se c'è un nesso tra questa dolenzia e gonfiare le gambe, quindi nel periodo, e l'assunzione di farmaci come può essere la pillola anticoncezionale. Allora, mi manca il primo pezzo che mi non ho sembra sentito. Che ci sia gonfiore degli arti, okay, e pillola anticoncezionale, considerato anche magari il periodo, perché in estate, cioè, lo mettiamo un po' in conto di avere un po' le gambe un pochino più gonfie. Sì, ci sono tanti cofattori che contribuiscono nella stagione molto calda, soprattutto quando è una stagione che si è impostata molto rapidamente, come è successo quest'anno, è molto calda ed è sempre un fenomeno di vasodilatazione. Quello che importa è che il gonfiore alle gambe non sia solo una sensazione, ma sia obiettivo, cioè se noi sentiamo le gambe gonfie è un conto, se invece guardando le nostre gambe obiettivamente le troviamo gonfie, non entriamo nelle scarpe, facciamo fatica, le sentiamo pastose, dobbiamo provare con un dito a comprimere nel punto della caviglia che sta sul lato esterno della gamba, sopra il malleolo, che è quel pezzo di osso che viene fuori, che sporge. Schiacciando non deve rimanere l'impronta. Se rimane un'impronta, proprio quella che noi medici chiamiamo la fovea, quindi un'impronta, proprio il segno della fossetta dove abbiamo schiacciato, quello vuol dire che la ritenzione idrica è eccessiva e allora bisogna parlare con il medico, potrebbe essere un problema di sovraccarico idrico renale o cardiaco, è molto importante. Ringraziamo la dottoressa Lidia Rottavender per essere stata con noi, Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, ringrazio voi che ci avete seguito e sostenuto, io vi do appuntamento come sempre a domani, potete seguirci sul nostro profilo Facebook, su Twitter oppure scriverci. A domani.